Gloria a Dio, abbiamo un anno meraviglioso davanti, fruttuoso, e voglio ricordarci quello che è la preghiera, quella che è il giusto approccio che vogliamo avere nei confronti di Dio per quest'anno, con questo claim, questa preghiera che è tu, non io. Possiamo ripeterlo insieme? Tu, con più convinzione, tu, non io, tu non io, è una preghiera, è il giusto approccio, come dicevo. E sapete, è importante avere il giusto approccio nei confronti di Dio, perché se abbiamo il giusto approccio nei confronti di Dio, ereditiamo le sue promesse, ereditiamo le sue benedizioni. Nel momento in cui non abbiamo il giusto approccio nei confronti di Dio, queste cose sfumano, ci sfuggono di mano, e lo vedremo insieme questa mattina. La scorsa settimana, quanti c'erano la scorsa settimana? Bene, la maggior parte di noi ci siamo focalizzati sul non io, non io, ed è così importante, lo faremo ancora, non io. L'Evangelo dice non io, non tu, non l'egocentrismo, non l'egoismo, non io. Vi ricordate, la scorsa settimana ho illustrato la cosa con Davide e Raffaele qui sul palco, per proprio portarci a riflettere su quanto siamo a volte spinti in due direzioni opposte. Da una parte Cristo, che ci vuole condurre nella direzione che Lui ha stabilito per le nostre vite, ma l'io, che si fa sentire invadente, ci spinge nella direzione opposta. E quindi abbiamo parlato dell'importanza dell'abnegazione, dell'importanza di smetterla di vivere una vita incentrata su se stessi e prendere sul serio le parole di Cristo Gesù, che dice: se uno vuol venire dietro a me, no, rifacciamolo, se uno vuol venire dietro a me, prenda, rifacciamolo, se uno vuol venire dietro a me, rinunci a se stesso, poi prenda la sua croce e mi segua. Quelli erano i discepoli che hanno lasciato tutte le cose. Però è così, è lasciare tutto per seguire Cristo. E ci siamo resi conto quanto questo appello, questo invito di Gesù non è un'opzione. Non è che puoi scegliere di seguire Gesù e non rinunciare a te stesso. Se vuoi seguire Gesù, devi rinunciare. È un must, è un comando. E se non lo fai, non vivi il reale seguire Cristo. Diventi come quella folla. Abbiamo anche citato la storia della folla, no? Che è stata sfamata da Gesù, ha ricevuto i pani, ha ricevuto i pesci, e poi Gesù si lamenta nei confronti della folla perché dice: voi mi seguite, mi cercate per la ragione sbagliata, perché vi ho dato da mangiare. E quindi noi non vogliamo essere folla. Amen, chiesa? Noi vogliamo essere discepoli, non vogliamo solo dirci cristiani, vogliamo essere cristiani. Sentiamo troppe persone dirsi cristiane e non vivere il cristianesimo. Noi ci dobbiamo differenziare, perché il vero cristiano è un cristiano radicale. Sentite, non esiste un cristianesimo moderato, parliamoci chiaro. Il cristianesimo è solo assolutamente radicale. Amen, siete d'accordo con me? E noi dobbiamo distinguerci nel comprendere che non possiamo vivere il cristianesimo quale religione, quale definizione della maggioranza, senza una concretezza. Se vuoi essere cristiano per davvero, devi essere discepolo, e se vuoi essere discepolo devi poter dire tu, non io, tu, non io. Abbiamo dato accento a questo non io, non solo parlando del fatto che non è un'opzione rinegare noi stessi, ma che è una scelta che si deve rinnovare ogni giorno. È bello che la stragrande maggioranza di noi è battezzato da adulto, ha scelto di rinunciare al proprio io, di morire a se stesso, e in quel giorno glorioso nel quale sei stato immerso nell'acqua, da quel giorno in poi cammini in novità di vita. Però Gesù dice non solo se uno vuol seguirmi rinunci a se stesso, ma poi aggiunge prenda ogni giorno la sua croce. Quanto è importante, stiamo scherzando insieme, però quanto è importante dare l'accento ad ogni cosa che Gesù dice. Perché se tu dici: il Signore ha detto, se uno vuol venire dietro a me, rinuncia a se stesso, prenda la sua croce, è un conto. Se invece citi quello che Gesù realmente ha detto e dici, Gesù ha detto, se uno vuol venire dietro a me, rinuncia a se stesso e prenda ogni giorno la sua croce, capite che ha un valore completamente diverso. Non è la scelta di quel giorno unicamente, glorioso, meraviglioso, nel quale ti sei battezzato, ma è una scelta che si deve rinnovare. Vogliamo un 2024 fruttuoso? Sì, credo che tutti noi vogliamo un 2024 fruttuoso per la gloria di Dio. Questa domenica non lo renderà fruttuoso. Abbiamo parlato anche dell'importanza di vivere l'incontro domenicale come l'inizio della settimana, perché così lo vivevano i cristiani primitivi, perché era per loro il lunedì. E quindi la domenica per noi, questo messaggio, queste decisioni che andremo a fare oggi, vivremo insieme oggi, devono spingerci in una quotidianità di rinuncia, in una quotidianità di ricerca di Cristo, in una quotidianità nell'essere Suoi discepoli. Amen. Abbiamo concluso il messaggio con una meravigliosa preghiera che insieme tra l'altro abbiamo pure ripetuto, di un grande uomo di Dio, John Wesley, e abbiamo fatto nostre le sue parole, perché sono meravigliose, meravigliose parole di rinuncia, meravigliose parole di arresa a Dio, e insieme l'abbiamo fatto prendendo una decisione. Oggi io voglio che facciamo nostre le preghiere di un'altra persona, di una donna, una gloriosa donna di Dio di nome Elizabeth Elliot. Voglio leggervi la sua di preghiera. La preghiera di Elizabeth è questa: Signore, rinuncio a tutti i miei piani e scopi personali, a tutti i miei desideri e speranze, e accetto la tua volontà per la mia vita. Mi dono a te la mia vita, tutta me stessa, completamente a te per essere tua per sempre. Riempimi e sigillami con il tuo Santo Spirito. Usami come vuoi. Mandami dove vuoi. Realizza completamente la tua volontà nella mia vita ad ogni costo, ora e per sempre. Bellissima, vero, come preghiera? Spero che possiamo farla nostra. Elizabeth Taylor, Elizabeth Elliot prega questa preghiera e non fa altro che dire: tu Dio, non io, tu Dio, non io, tu Dio, non io, tu prima, non io. E questo è veramente il senso della preghiera. Il senso della preghiera non è cercare di incentrare l'attenzione di Dio sui nostri bisogni, sulle nostre necessità. Certo, Dio è buono, misericordioso. Tra l'altro, la folla che Gesù ha corretto, perché la seguiva solo perché era stata sfamata, era la folla che lui aveva sfamato. Gesù dimostra tanta grazia. Dovunque andava, lui moltiplicava pesci e pani. Dovunque andava, lui guariva. Dovunque lui andava, incontrava i bisogni. E infatti tutti noi abbiamo una testimonianza. Chi è che ha una testimonianza da dare di un Gesù che provvede? Di un Gesù che guarisce? Di un Gesù che ti incontra nelle tue necessità, nella tua tempesta, e ti libera dalla tempesta, dalle circostanze avverse? Però è anche il Gesù che, misericordioso, buono, poi ti corregge per farti maturare ad una scelta dove tu rinunci alla tua vita, perché non c'è miglior scelta per la tua vita se non rimetterla nelle mani del tuo Salvatore, Signore Cristo Gesù. Amen. E quindi questa donna fa questa preghiera ed è straordinaria la preghiera, ma è ancora più straordinaria la sua vita, che ci parla e ci fa comprendere perché c'è questa preghiera di tale spessore, di tale valore. Elizabeth è una giovane ragazza che incontra Jim Elliot. Quando era giovane, all'età di 26 anni lui e all'età di 27 anni lei si sposano. Devo guardare un po' le date, nel 58. E nel 53. 1953. Si incontrano, si amano e seguivano insieme un college cristiano. Quindi lei studiava il greco e lui studiava invece teologia. Erano innamorati di Dio prima che l'uno dell'altra. Avevano una passione comune che era Cristo Gesù. Jim si distingueva per essere un uomo e un ragazzo così devoto a Dio che si rendeva conto che la sua giornata sfumava troppo velocemente e non aveva modo di dedicare il tempo necessario alla preghiera e allo studio della parola, e quindi fa una decisione radicale e costante nel tempo di svegliarsi ogni mattina alle 5 per dedicare 2 ore della sua giornata a studiare la parola di Dio, a inginocchiarsi, a pregare e a rendere se stesso e la sua giornata, vedete, morire, no? Prendere la croce ogni giorno. Questo è l'esempio di Jim. E così questo ragazzo si distingue e comincia a maturare una passione, una chiamata. Sente la necessità di andare nei popoli non ancora raggiunti e quindi gli viene presentata una tribù indigena, una tribù della foresta Amazzonia, che si sa che è una tribù isolata, dove l'Evangelo non è mai arrivato, nessuno conosce quella lingua. E allora i due hanno in comune l'amore per Cristo, l'amore l'uno per l'altro e l'amore per la volontà di Dio. E quindi si sposano e immediatamente dopo partono. E vanno in Ecuador e cominciano a servire il Signore. E dopo poco tempo che hanno servito il Signore in diverse tribù, Jim si organizza con un team di altri missionari per raggiungere questa tribù sperduta, alla quale nessuno è mai arrivato, una tribù che non aveva l'Evangelo, è la tribù dei Waorani. E quindi si organizza con questi altri missionari, altri ragazzi come lui, giovani, e in una maniera molto strategica cominciano con un aereo a sorvolare la zona e a individuare il villaggio. E dopo aver individuato il villaggio, cominciano a cercare di creare un contatto con questa tribù, sapendo che è una tribù violenta, ostile allo scambio con altre persone. Quindi cosa fanno? Sorvolano la zona con un aereo e poi cominciano a lanciare dei regali alla tribù, dei doni, per far comprendere non siamo qui per dichiararvi guerra, non siamo qui per mandarvi via, siamo qui perché vi vogliamo bene. E la tribù reagisce bene, perché alle consegne che loro fanno, a un certo punto la tribù ricambia con dei doni, e quindi loro percepiscono in quel momento che si è creata una connessione, e trovano lungo il fiume di questa foresta Amazzonia un luogo dove poter atterrare con il piccolo aereo. E che fanno? Atterrano per avere un contatto diretto con questa tribù. E da lì a poco un uomo e 2 donne della tribù si affacciano e stanno con loro 2 giorni. In questi 2 giorni loro sono contenti e sono speranzosi, perché in questi 2 giorni creano amicizia, c'è fiducia, si crea una fiducia. Pensate che il pilota dei missionari porta a fare un giro il ragazzo che si è affacciato, proprio per fargli vedere, fargli sperimentare la bellezza dell'aereo. E quindi vivono tutto questo, 2 giorni, sono rincuorati, rimangono lì accampati lungo le rive del fiume, sapendo che a un certo punto avrebbero avuto l'opportunità di raggiungere l'intera tribù. Dopo qualche giorno la tribù si affaccia, numerosa, e Jim è il primo che con entusiasmo si lancia verso la tribù per accoglierli, per dimostrare amore. E quello che accade è qualcosa di terribile, perché tutti e 5 i missionari vengono in quel momento assassinati, ammazzati, ognuno di loro, tutti morti. Non si sa più niente di che fine abbiano fatto, le loro mogli in attesa. Vogliamo vedere una foto di Jim e Elizabeth? Sono alla destra dello schermo con la piccola Valerie. Piccola Valerie. E questa storia mi ha fatto molto riflettere, perché delle tante storie Valerie, quando il padre è morto, è stato assassinato, aveva 10 mesi, l'unica loro figlia. Potete immaginare, no? Immedesimarmi nella storia, pensare a Ioanna, no? E Giorgia, lasciate sole per la causa di Cristo, morti, assassinati, martiri. Jim Elliot, un grande uomo di Dio, dice: non è stupido chi perde ciò che non può trattenere per guadagnare ciò che non può perdere. Non è una vita sprecata quella di Jim. Sì, perde, ma perde qualcosa che non può trattenere. La tua vita, la mia vita, non la possiamo trattenere. Non è nostra, non ci appartiene. E quindi tanto vale perderla per guadagnare qualcosa che non puoi perdere. Non puoi perdere le ricchezze dei cieli, le benedizioni della vita eterna. Non puoi perdere quelle che sono le promesse di Dio. Sapete perché Elisabetta è una donna straordinaria? Perché lei non torna a casa sua in lutto, non si dà una tregua da Dio e dalla cristianità. Sceglie di rimanere e fa quella preghiera che io vi ho letto. E il Signore crea un'opportunità assurda, incredibile. Crea un'opportunità per Elisabeth, pensate un po'. E per questa sua amica, vediamo se trovo il suo nome, è bello poter citare i nomi. Rachel Saint, che è la sorella di uno di questi missionari assassinati. Il Signore dà a loro l'opportunità di raggiungere la tribù. La tribù che ha ammazzato il loro marito, il loro fratello, i loro stretti amici. Elisabeth che fa? Va nella tribù. Va e vive il perdono. Dimostra il perdono. Parla del perdono. Insegna il perdono. E di questa tribù molti vengono a conversione. Il desiderio di Jim era sempre stato quello non solo di raggiungere le tribù sperdute, ma che in una qualche maniera ci fosse un risveglio nella Chiesa nel mandare più missionari. E lui pregava al Signore che potesse essere un mezzo per fare in modo che tante altre persone potessero scegliere la missione. E sapete quello che è accaduto con la morte di Jim? È che in ogni parte del mondo, da ogni nazione, chiese hanno mandato in maggior numero cristiani disposti ad andare nei posti non raggiunti per la causa di Cristo. Quindi quello che Jim non avrebbe mai potuto immaginare di fare nella sua vita, riesce a farlo con la sua morte, e con la sua morte c'è l'opportunità per questa tribù di comprendere il perdono, perché lo toccano con mano. Elisabeth conosce gli assassini di suo marito, li ama, li accudisce, li cura, li medica, fa del loro, nei confronti di loro del bene, e questi vengono a conoscenza di Cristo. Se vogliamo seriamente orientarci verso le parole di questa preghiera, tu non io, dobbiamo fare sul serio nel confrontarci con questo tipo di vite. E non so tu, ma io nel momento in cui mi confronto con questo tipo di vite mi chiedo, mi domando, che cristianesimo sto vivendo? È veramente un cristianesimo disposto a pagare tutto, a lasciare ogni cosa per la causa di Cristo? Voglio poter dire di sì, ma forse non è ancora vero, e quindi perché dirvi una bugia? Ma voglio essere nel processo di rinuncia di me stesso, un processo di crescita dove imparo a lasciare ogni cosa, come hanno fatto i discepoli. E sapete, il seguire Cristo rinunciando a se stesso, è qualcosa che scaturisce per una passione, per un fuoco interiore. Mi sono chiesto, e forse ti stai chiedendo pure tu, cosa porta queste persone a scegliere la morte piuttosto che l'agio della propria vita negli Stati Uniti o in un mondo civile, in un mondo comodo? Che cosa c'è di diverso in questi cristiani rispetto a noi? E la risposta è semplice, non è difficile, non dobbiamo scavare così a fondo. Se tu vuoi avere passione per Cristo, per la sua causa, per il piano della sua vita, se vuoi imparare a rinunciare a tutto, essere disposto ad annullare completamente te stesso, l'unico mezzo, l'unica chiave è l'amore, è amare Dio. Perché vedete, prima di poter seguire Cristo, dobbiamo poterlo amare. Amare viene prima del seguire. E quindi stamattina vogliamo riflettere sull'amore che il Signore ci invita ad avere, perché è un amore totale. E non sono io a dirlo che l'amore viene prima del seguire, l'amore viene prima di ogni cosa, è Gesù stesso che lo dice. È il primo e il più grande comandamento. Perché è il primo e il più grande comandamento? Perché racchiude tutti gli altri comandamenti. E se tu rispondi all'amore che il Signore ti invita a vivere concretamente, radicalmente, totalmente, tu adempi ogni altra istruzione che Lui ti dà. Se lo ami, lo segui. Se lo ami, ti sacrifichi. Se lo ami, ubbidisci. Se lo ami, fai quello che Lui ti dice. Se lo ami, ti fidi. Se lo ami, ti arrendi. Se lo ami, e nell'amore c'è l'annullamento dell'egoismo, dell'egocentrismo e dell'ego. Mi seguite? Ed è per questo che lo leggiamo insieme, questo grande comandamento, in Marco 12, versetto 28. Uno degli scribi che li aveva uditi discutere, visto che egli aveva risposto bene, si avvicinò e gli domandò questo a Gesù: qual è il più importante di tutti i comandamenti? Gesù rispose: il primo è, ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Dio, ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo: ama il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento maggiore di questi. In un altro Vangelo c'è scritto che in questo comandamento è racchiuso tutto il Vecchio Testamento, i profeti, tutti i comandamenti, tutto ciò che leggiamo, tutta la Bibbia conosciuta, Gesù l'ha riassunta in un unico comandamento: ama Dio. Ama Dio. Quindi se vuoi poter vivere un anno incentrato su questo orientamento, tu non io, e imparare da questi uomini, queste donne di fede, devi poter prendere in seria considerazione il grande comandamento: amare Dio come con tutto il tuo cuore, con tutti i tuoi sentimenti, con tutte le tue emozioni, con tutta l'anima tua, con tutto l'uomo interiore, con tutto ciò che vivi giorno dopo giorno, con tutta l'anima tua, con tutta la mente tua, con tutti i pensieri che hai ogni giorno, con quello che si affaccia, ciò che ti bombarda, scegliere di amare con il Signore, con tutta la tua mente, conoscerlo, studiare, conoscere la sua parola, memorizzarla, far tuo chi è Dio, con tutta la tua mente e poi con tutta la tua forza. Con tutta la tua forza, con ogni determinazione, con ogni radicalità. Torno a ripetere, non c'è un cristianesimo moderato. Il cristianesimo moderato non esiste, non è cristianesimo. C'è solo un cristianesimo che è radicale, che è totale, che ci porta alla morte, all'abnegazione totale nostra, e si basa su un profondo amore per il Dio che ha mandato il suo unigenito figlio affinché noi potessimo essere salvati. Noi, un popolo perduto nei nostri peccati, che non meritiamo nulla da parte di un Dio che è tre volte santo, perché siamo peccatori, peccatori, peccatori, eppure Lui ci ha tanto amato che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque creda in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Se questo non ti motiva a lasciare tutto, allora non stai vivendo il cristianesimo, perché il cristianesimo è questo. come vivere il grande comandamento? Come vivere questo amore? Apostolo Paolo desiderava, credo che avesse lo stesso desiderio mio, per la chiesa di Efeso. Quale pastore, quale apostolo che era, aveva a cuore che gli efesini comprendessero l'amore di Dio e che vivessero in questo amore. E non lo spiega, non cerca di dare parole, prega. E io ho pregato questa settimana per la nostra chiesa incessantemente affinché possiamo afferrare la larghezza, la lunghezza, la profondità dell'amore di Dio, perché c'è solo un modo per amare Dio: conoscere il suo amore. Se conosci il suo amore, non puoi far altro che rispondere con amore. Se tu credi che puoi amare Dio senza conoscere il suo amore, stai vivendo la legalità di un comandamento. Non è un comandamento che ti porterà ad amare Dio. Non è il fatto che Gesù ha detto questo è il più grande dei comandamenti, è il fatto che io posso predicarti che devi amare con tutto il cuore, che ti porterà ad amarlo di più. No, è la comprensione profonda del suo amore che ci spinge ad amarlo come contraccambio, come misero contraccambio, il minimo che possiamo fare dopo che abbiamo scoperto questo amore. E voglio dimostrarvelo, perché non voglio che siano mie parole, ma che siano veramente, che sia la parola di Dio a spiegarci questo. E troviamo una spiegazione di come vivere questo amore. Se sei con me ancora e desideri tanto che ci sia un tu, non io, nella tua vita, cresca Dio, se vuoi crescere nel suo amore, allora prendi in considerazione questa storia. Si trova in Luca 7, credo che la maggior parte di noi la conoscono bene, però vogliamo analizzarla insieme brevemente. Uno dei farisei lo invitò a pranzo ed egli, entrato in casa del fariseo, si mise a tavola. Ed ecco una donna che era in quella città, una peccatrice, saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un vaso di alabastro pieno di olio profumato e stando ai piedi di lui, di dietro, piangendo, cominciò a rigargli di lacrime i piedi e li asciugava con i suoi capelli e li baciava e ribaciava i piedi e li ungeva con l'olio. Il fariseo che lo aveva invitato, veduto ciò, disse fra sé: costui, se fosse profeta, saprebbe che donna è questa che lo tocca, perché è una peccatrice. E Gesù, rispondendo, gli disse: Simone, ho qualcosa da dirti. Ed egli: maestro, di pure. Un creditore aveva due debitori, l'uno gli doveva 500 denari e l'altro 50, e poiché non avevano di che pagare, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più? Chi di loro dunque lo amerà di più? Simone rispose: ritengo sia colui al quale ha condonato di più. Gesù gli disse: hai giudicato rettamente. E voltatosi verso la donna, disse a Simone: vedi questa donna? Io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per i piedi, ma lei mi ha rigato i piedi di lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, ma lei, da quando sono entrato, non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai versato l'olio sul capo, ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi. Perciò io ti dico, i suoi molti peccati le sono perdonati, perché ha molto amato, ma colui a cui poco è perdonato, poco ama. Poi disse alla donna: i tuoi peccati sono perdonati. Quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire in loro stessi: chi è costui che perdona anche i peccati? Ma egli disse alla donna: la tua fede ti ha salvata, vai in pace. Si conclude così questa storia. Ed è incredibile, straordinaria, perché è una storia che ci presenta due personaggi che sono in due posizioni totalmente diverse. Sono entrambi alla presenza di Dio, sono entrambi vicini a Cristo, sono tutti e due così vicini da poterlo toccare, eppure hanno un'esperienza di Cristo totalmente diversa. Perché l'uno ha invitato Gesù con un senso critico, con un senso di giudizio, con una sufficienza, una superficialità, un'arroganza. Era un fariseo, si sentiva giusto e voleva passare del tempo con Gesù per vedere Molto probabilmente era questo il motivo dell'invito. Vediamo, è veramente un profeta. Vediamo, è veramente quello che dice di essere. Ed è per questo che a un certo punto, quando osserva la donna che fa tutto quello che fa nei confronti di Gesù, è una peccatrice, è un'adultera, e quindi Simone dice, se fosse un profeta, vedi, non lo è. Perché se fosse profeta saprebbe chi gli sta toccando i piedi e non glielo permetterebbe. E Gesù così dimostra non solo di essere un profeta, perché legge i pensieri di Simone e contrabbatte e dà una spiegazione di quanto valore avesse il sacrificio della donna ai suoi piedi, ma dimostra anche di essere Dio incarnato, perché dice a quella donna: i tuoi peccati sono perdonati, scandalizzando tutti. Perché chi è che può rimettere i peccati se non Dio solo? E loro lo sapevano, erano giudei. Quindi due approcci. Se ti stai domandando come puoi amare Dio, il vero amore nasce dalla giusta rivelazione di chi Lui è. Chi è Cristo per te? Chi è il vero Cristo? Chi è Dio? Che rivelazione hai di Lui? Perché se sei scettico, sei lì a testare Dio, provare Dio, a giocare con Dio, non è il giusto approccio. Ma se hai rivelazione, come so che noi abbiamo rivelazione, che Lui è il Salvatore, che Lui è il Signore dei Signori, il Re dei Re, il Dio Onnipotente, il Santo che si è fatto uomo, allora il tuo approccio cambia. La rivelazione che hai di Dio cambia totalmente tutto. E più hai rivelazione di Dio, più finisci per amarlo. Come dice il salmista nel Salmo 27, dal versetto 4, una cosa ho chiesto al Signore, quella ricerco, questa cosa ricerco, questo desidero, questo sto cercando, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per fare cosa? Per contemplare la sua bellezza, la bellezza del Signore, e meditare nel suo tempio. Il salmista ha capito tutto, ha capito che ha a che fare con il Dio sovrano, eterno, meraviglioso, che può contemplare, sul quale può riflettere, che può amare con tutta la sua mente. Contemplare la bellezza di Dio significa fermarsi e riconoscere i suoi attributi. Lì conosci gli attributi di Dio, perché Lui è buono, Lui è molto buono, Lui è il più buono. Conosci gli attributi di Dio, perché Dio è onnipotente, grandioso. Se non vuoi aprire la Bibbia, affacciati al creato. Ieri ho preso la macchina, ero in preghiera, stavo andando al rifugio, e mentre ero in preghiera e proprio dicevo: Signore, voglio contemplare la tua bellezza, vedevo una luce strana sul parabrezze, era una luce intensa ma allo stesso tempo spenta, una strana luce, e in quel momento mi sono girato per vedere un tramonto unico, perché ogni tramonto è unico. È il pittore, è Cristo Gesù, è Lui che ha creato ogni cosa, Lui è meraviglioso, Lui è creativo, Lui è bellissimo, amen. Lui è straordinario, ogni cosa che fa è meravigliosa, gloria a Dio, questo è il nostro Dio. E il diavolo vuole ridurci a farci vedere Cristo come uno dei tanti, uno che può fare qualcosa, e magari vediamo, indaghiamo, può fare davvero. No, fermati, mettiti ai suoi piedi, piangi, contempla la sua bellezza. Il salmista nel Salmo 119:37 dice: distogli gli occhi miei dal contemplare la vanità. Siamo distratti, per questo non vediamo. C'è qualcuno che ci distrae, perché se vediamo la vanità, non vediamo la bellezza di Dio. Se siamo concentrati su una cosa, non possiamo vedere l'altra. Su cosa sei concentrato? La vanità. La soluzione sono i soldi. Quest'articolo di questa ragazza che ha vinto 5 milioni di euro, questa sì che è una bella cosa. Fammi cliccare su quest'articolo, fammi leggere. fammi scrutare come ha fatto, fammi giocare, fammi tentare, fammi prendere, fammi avere i soldi, i soldi. Finiamo per essere sui social attratti da queste persone che hanno soldi e vivono una vita felice perché hanno i soldi. Hanno la bella vacanza, hanno la bella macchina, hanno le tante donne, i soldi. Vanità, vanità, schifezza, bruttura. Quando ti rendi conto che c'è un Dio che è meraviglioso ed è bellissimo e tutto quello che ti comunica è purezza. Sapete, la mia concezione di contemplazione è cambiata da quando ho Ioanna. Ho capito che cos'è contemplare. Prima non lo sapevo fino in fondo. Sì, ho contemplato la bellezza di mia moglie, ma mai ho contemplato una persona quanto io contemplo Ioanna. Ve lo posso ammettere? E credo che tutti i genitori lo capiscono. Sei lì e la guardi. E poi ti chiedi, ma non la sto guardando troppo? Non ne ho abbastanza? E la risposta è no, non ne hai abbastanza, perché è qualcosa di straordinario e se volessi spiegarvelo non lo saprei spiegare. È bellezza, è purezza, è miracolo vivente, è un dono di Dio, è perfetto in ogni sua forma, è mia figlia. Questo è contemplare. Contempla Dio. Contempla Dio e se non hai tempo svegliati la mattina alle 5 per farlo. Contempla Dio. Segui l'esempio di Jim. Se vogliamo amare di più, se vogliamo quel tu che cresca, dobbiamo avere una rivelazione di Dio. Questa donna ce l'aveva. È entrata in quella casa sapendo che non aveva a che fare con un uomo qualunque. Ha preso la cosa più costosa. Ogni suo avere e lo ha versato dove? Ai suoi piedi, neanche al capo. Ai piedi. Prendi tutto ciò che hai, dallo al Salvatore. Se dai, cresci nell'amore. E se hai amore, dai perché hai già quell'amore. Che cosa fa crescere il nostro amore? Gesù dice, colui a cui poco è perdonato, poco ama. Colui a cui poco è perdonato, poco ama. Quindi cosa dovremmo fare? Peccare di più per essere più perdonati e così crescere nella misura dell'amore di Dio? No, quello che Gesù sta dicendo è che semplicemente la donna non era più peccatrice di Simone. Erano entrambi peccatori, di peccati diversi. E noi siamo peccatori come quella donna. E come Simone, tutti noi. La differenza è che i peccati della donna erano perdonati, tutti perdonati. Perché? Perché ha riconosciuto in Cristo il Salvatore della sua anima. Se vuoi amare Dio, lasciati perdonare. E per lasciarti perdonare, riconosci la gravità del peccato. Quando smettiamo di riconoscere la gravità del peccato, ho detto solo una menzogna. Mi sono comportato solo un po' in modo sconveniente. Sono stato un po' solo scontroso. Va bene, la parola dice di usare parole gentili, non sempre succede, siamo umani. Così potrei andare avanti nell'elenco lungo. Sì, non ho perdonato, ma sappi che l'ha fatta grossa. È un grande torto quello che mi è stato commesso. Non posso perdonare un torto così grande. Non è possibile. Qualcuno deve pagare. Se non altro, cambierò strada quando lo incrocio. È giusto, è plausibile, è un diritto. Il Signore dice, muori a te stesso. Riconosci che non hai diritti. Fai quello che ti chiedo di fare. Quello che Dio ci invita a fare è a riconoscere la gravità del peccato. Se smettiamo di riconoscere la gravità del peccato, Chiesa, smettiamo di mantenere accesa quella fiamma di passione e di amore per Cristo. Deve essere sempre vero che il peccato è sempre grave. E abbiamo un Salvatore che ci accoglie, che ci perdona. Non sto dicendo che devi essere condannato nei tuoi peccati, devi flagellarti per quello che hai commesso, ma smettila di essere superficiale nei confronti del peccato, qualsiasi esso sia, perché ti sta spegnendo la fiamma dell'amore nei confronti di Dio. A chi è molto perdonato, molto ama. Ogni giorno vai da Dio, Signore, io ti confesso i miei peccati, e sono questi, quelli che riconosco sono questi. Mancanza di perdono, scontrosità, rabbia, atteggiarmi in una maniera sconveniente, avere il pensiero ad altre donne, l'adulterio, tu l'hai descritto anche come il solo pensiero, o dire raca a mio fratello è un omicidio. Io confesso a te questa gravità, il peso dei miei peccati, e per quelli che non riconosco, chiedo di rivelarmeli. Scruta il mio cuore, come dice il salmista, fammi riconoscere i peccati, perché è importante riconoscere i peccati nella nostra vita, per poi confessarli e ricevere perdono. Vi leggo un salmo. E concludiamo con questo salmo, il Salmo 32, perché il salmista aveva capito bene il valore di confessare i propri peccati, e dice così: beato l'uomo a cui la trasgressione è perdonata. Beato, felice l'uomo la cui trasgressione è perdonata. Le tue trasgressioni oggi possono essere perdonate. Puoi andare a casa con un cuore puro, limpido, sapendo che Gesù ti ha lavato, ti ha perdonato, c'è un nuovo inizio per te a partire da oggi, e puoi fare sul serio nei confronti del peccato e dire: Signore, è l'ennesima volta, ma per quante volte sono caduto e quante volte ho ripetuto questo peccato, non voglio cadere nel tranello della bugia del nemico che mi porta a credere che non c'è speranza per me di essere libero, perché io voglio la libertà che tu prometti, e a te vengo per confessare questo peccato. E se dovessi commetterlo ancora, tornerò sulle mie ginocchia per dirti perdonami e chiederti la grazia di avere la forza di allontanare il peccato dalla mia vita. Beato l'uomo la cui trasgressione è perdonato e il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui il Signore non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. E poi aggiunge: finché ho taciuto, le mie ossa si consumavano tra i lamenti che facevo tutto il giorno, poiché giorno e notte la tua mano si appesantiva su di me, il mio vigore inaridiva come per arsura d'estate. Pausa. Davanti a te ho ammesso il mio peccato, non ho taciuto la mia iniquità, ho detto: confesserò le mie trasgressioni al Signore, e tu hai perdonato l'iniquità del peccato. E va avanti il Salmo dicendo: perciò ogni uomo pio ti invochi mentre può essere trovato, e qualora straripino le grandi acque, esse per cento non giungeranno fino a lui. Tu sei il mio rifugio, tu mi proteggerai nell'avversità, tu mi circonderai di canti di liberazione. E va avanti con un canto che è trionfale, diventa sempre più bello. Andatelo a leggere, Salmo 32. Ma tutto parte dall'importanza e il valore della confessione dei nostri peccati. La parola di Dio ci insegna, stiamo giungendo alla conclusione, voglio invitare il gruppo Lode, anzi no, non avremo il gruppo Lode, devono partecipare anche loro alla cena del Signore. Quindi avremo un sottofondo musicale, però ci stiamo per approcciare alla cena del Signore. E la parola di Dio, sapete, dice che nel momento in cui noi prendiamo di quel pane, di quel vino in maniera superficiale, noi ci attiriamo un giudizio. Noi ci attiriamo un giudizio. Perché non c'è un cristianesimo che può essere mediocre, che può essere superficiale. C'è solo un cristianesimo che è radicale, perché nasce dalla radicale scelta di Dio di dare il suo figlio quale sacrificio per la mia e per la tua vita. Sapete chi ha amato Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima sua, con tutta la mente sua e con tutta la forza sua? Solo un uomo, Cristo Gesù. Lui ha vissuto la vita perfetta, alla quale il Signore ha invitato tutti noi a vivere. Ma mancanti nei nostri peccati, nella legge del peccato che domina dentro di noi, nessuno è mai riuscito ad adempiere questo comandamento appieno. Gesù sì, è puro, limpido, senza colpe, senza iniquità. Ha preso su di sé le tue colpe, il tuo non amare Dio, il mio non amare Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima mia, con tutta la mente mia, con tutta la forza mia. Gesù è andato su quella croce per dire: io voglio coprire i tuoi peccati, quindi beato sei, perché il salmista dice: beato l'uomo il cui peccato è coperto. E da cosa è coperto? Dal sangue di Cristo Gesù. I tuoi peccati, i miei peccati sono coperti da Cristo Gesù. Non per portarci ad essere poi parte di un cristianesimo che è leggero nei confronti del peccato, che sminuisce la gravità del peccato, ma piuttosto ad essere cristiani che, riconoscendo la radicale scelta del Padre di dare il suo figlio e sacrificarlo per noi, noi a nostra volta scegliamo di fare di tutto per allontanarci dall'io, per allontanarci dal peccato e fare grande Dio. Vogliamo alzarci in piedi? Che questa sia l'attitudine del cuore mio e tuo oggi. Mio e tuo oggi. Nel Salmo che abbiamo letto c'è scritta questa frase: perciò ogni uomo pio ti invochi mentre può essere trovato. Mentre può essere trovato. Tu puoi essere trovato. Gesù è lì alla tavola, è qui. Puoi rimanere nella posizione di essere un Simone che mantiene una distanza, una posizione distaccata, che si sente giusto, che non ha da confessare peccati. Oppure puoi essere la donna peccatrice che si mette ai suoi piedi e dice: Signore, io ho da confessare così tanti peccati, tante mancanze, e ti ringrazio perché ti posso invocare e so che posso essere, che tu ti fai trovare, che tu puoi trovarmi, perché lui è qui oggi. È qui oggi nel pane, nel vino. È qui oggi, in questi simboli che prendiamo. Questa è comunione con il suo sangue, questa è comunione con la sua carne. Questa è la cena del Signore. È un intimo esercizio del cristiano. È unico quello che stiamo per vivere, è prezioso. E ci è dato di poterlo vivere come la peccatrice per ricevere perdono e andare via liberi nell'anno che ci sta dinanzi, un anno fruttuoso che Dio ha stabilito per me. Non essere un Simone. Sapete Simone che cosa avrebbe dovuto fare? A quel punto, riconoscendo che fosse un profeta e poi Dio stesso, mettersi lui ai piedi di Gesù e piangere lui, e pentirsi e ravvedersi. Non lo sappiamo se l'ha fatto. La storia si conclude in questa maniera. Forse sì, forse lo ha fatto. Però ciò che conta è che noi lo facciamo, che io e tu lo facciamo. Questo è un tempo intimo, personale, tra te e Dio, che è qui presente. Confessa i tuoi peccati, non trattenere nulla. E fai a Dio la preghiera, tu, non io. Vogliamo pregare. Meraviglioso sei, Padre. Meravigliose sono le tue opere. Meravigliose le tue gesta. Sei bellissimo. Sei straordinario. Bellissimo il tuo amore. Un amore che non possiamo meritare, che non possiamo guadagnare, che non possiamo conquistare. Un amore di grazia. l'argito anche per il peggiore dei peccatori. E davanti a questa grazia, noi inginocchiamo le nostre ginocchia davanti a te, Signore, per dirti perdonaci, perdonaci per ogni peccato. Tutti i peccati siano da te coperti, tutti i peccati siano a te confessati. Vuoi tu darci la grazia di essere non solo perdonati e lavati, ma liberati? La mia preghiera per questa mattina è che si aprino carceri. Che si aprino carceri. Che celle si aprino per i tuoi figli, per le tue figlie, per camminare in quella piena vita che tu hai per noi, che tanto ti è costata. Padre, io prego per la nostra Chiesa tutta. La preghiera di Elisabeth. Padre, quello che vogliamo dirti come Chiesa, pieno Vangelo, qui a Modugno, che rinunciamo a tutti i nostri piani, a tutti gli scopi personali, a tutti i desideri e tutte le speranze, per accettare la Tua volontà nelle nostre vite. Padre, come Chiesa ci doniamo a Te, la nostra vita completamente a Te, per essere Tuoi per sempre. Riempici e sigillaci con il Tuo Santo Spirito. Usaci, Padre, come vuoi. Usaci come vuoi, Padre. Mandaci dove vuoi, Signore. Realizza completamente la Tua volontà nelle nostre vite ad ogni costo, ora e per sempre. Se sei d'accordo, ripeti con me, amen. Amen. Vogliamo adesso prendere il pane, il vino e vivere questo momento di preghiera.